di tutto un presentir arcano, or mi tormenta, or mi tormenta, vanne, vanne, essa mi grida, essa mi grida, di un'altra parte vola, vola il soverso della tua signora. Vanto io pur, vanto io pur, superbo. Il tuo schiavo